sogni che si avverano come comete che cadono. Sono stelle cadenti che fanno ciò che desidero. Ti ho incontrato da uomo esiliato, tu la dea che mi ha sempre capito. Ero solo e disperso, perso in un universo inferno. Odiavo il mondo senza chiave per il cassetto dove era nascosto un sogno. Poi il destino si è mosso, coincidenze mi hanno permesso di trovare il tuo volto e il tuo sorriso caldo. Stavo sperando, non ascoltando la voce che da dentro stava sussurrando che un sogno rimane solo un sogno. Ma io ho bisogno di poco, è un bacio dato, e forse solo un bacio dato per gioco. Poi un fuoco dentro, rileggendo lento quella frase di Vasco. Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, so solo che sono pochi, quelli che si avverano. Sogni rincollati a stento, il paradiso è un inferno. Niente caldo, ma un freddo inverno che mi gela dentro. Il tuo nome è un'ossessione senza scampo, sono incerto e di certo. La colpa è di me stesso, egoista e bastardo. Testardo, perché non riconosco l'ennesimo sogno. Ma non ce la faccio più, mi manchi tu. A distruggermi e struggermi con Almost Blue, sognando con te un viaggio a Kingston o a Cancun. Ma non è la mano, sdraiati nudi sul divano, fatto sogni in vano. Le stelle stanno in un cielo lontano, annegate come gocce nell'oceano. E i sogni non lo sappiamo, so solo che son pochi quelli che si avverano. Le stelle stanno, i sogni non lo so, so solo che sono pochi, quelli che si avverano. È solo un sogno da cui non voglio svegliarmi. Sei venuta a salvarmi o dovevamo incontrarci? Sono scorci di vite tristi unite in ideali perfetti, da destini incoerenti ma giusti. Siamo amanti dipendenti che non possono separarsi da stelle cadenti e sogni nascenti. Io e te su letti sfatti, sudati ansimanti, sospiri lenti, pochi soldi, due corpi, un'anima nati dal nostro fondersi in abbracci stretti sopra nidi di serpenti, invidiosi e impotenti dei nostri sorrisi si aperti sugli occhi come i cassetti nascosti dove custodivamo i sogni. Il comunismo è il paradiso in terra, cioè una società senza ingiustizie, senza differenza di classe, senza poveri, senza ricchi. La prima mossa importante da fare è di eliminare la fonte di ogni male, che è la proprietà privata. La proprietà privata deve passare nelle mani dello Stato, a partire dai mezzi di produzione, dalle imprese. La borghesia è pericolosa per il nostro benessere, è pericolosa per la nostra libertà. Bisogna essere flessibili.